Wow, sei pallido. Senti, amico, non sto prendendo il sole da molto, quindi faccio un taglio. Da quanto tempo sei qui? Da febbraio. Ho visto delle scolorine più colorate di te. Sì, amico. Non sono il tipo più abbronzato di te. Ma, come puoi notare, ti sto lavorando. Sembra che tu abbia vissuto sotto una roccia per tutta la vita. Il mio colorito è un po' pallido, te lo concedo. Ma presto avrò la faccia del bronzo. Lontano dal mare Mediterraneo, dalla mia terra che oramai mi reputa un estraneo, ma sangue siciliano, con il cuore in mano, disse inutile piangersi addosso, continuiamo. Sembrava un brutto sogno, ma è la realtà. Cara, quale cara è la cruda e amara verità. Se si sapesse realmente come andrà, intendo la vita, me ne andrei nel Zara e ciò che sarà sarà. Nessuno si accorge di me, insignificante puntino, che il tempo divora nel tempo dello spuntino. Mi definisco un cestino, dove gli anni che furono scaricarono errori e drammi nella testa di un bambino. Ero innocente eppure ascolta, non c'entrando niente mi misero sulle ginocchia. Misero ragazzino effimero senza forza, ma ora c'ho una testa, cor di metà rivolta, questa è la svolta. Ora mi ritrovo indipendente, indipendentemente che qualcuno vorrebbe aiutarmi, ma no thanks. Non voglio niente, assente mi trovi se mi cerchi, ma non provarci non mento, perché se ci provi il tuo tempo lo perdi. Troppo preso dal peso della vita, le so quanto basta per smetterla di pensar male e perdermi tra le grida. È questo pianto che anche se canto di tanto in tanto, nel fondo mi schianto, ma la prendo come una sfida. Vuoi che rida? È difficile tanto. Cazzo c'è da ridere, che è meglio che preghi ogni santo. Santo Dio, la realtà mi spaventa tanto. Tu ridi, ridi, ridi che le risate saranno tutto pianto. A volte ti ritrovi faccia a faccia con la realtà e si pensa, chissà cosa cazzo succederà, eh? Non lo so, uomo, neanche io, ma mi vivo ogni attimo e la realtà con la mia mentale insanità. Mi ispiro ad Atlante costretto a reggere il peso del mondo sulle braccia stanche, lo ammetto. È un paragone forzato, ma resto piegato da crono. Dio del tempo, colpa sua se poi rallento. Non sento più le gambe che una volta spiccavano il volo. Ho perso l'abitudine di sentirmi solo. Non definirei quello che faccio come un lavoro. Ripudio gli ignavi, se perdo il controllo è per colpa loro. Cazzo che sfiga, guarda dove mi hanno partorito. Era meglio un convento francese o perdere un dito. Io mi adeguo ma c'ho quasi 30 anni. Mettiti i miei panni a una cara vecchia realtà di melodrammi, di vuoti di memoria, di inganni e sensi di colpa. Mi vergognavo ed ignoravo mia madre spolpa. Amico di nessuno, stavo in camera al buio. Pensavo alla mia prima donna rievocandone l'effluvio. Busta, cartina, fumo e tu. Dammi una bottiglia di bourbon che mi consumo. Com'è che tutto questo complesso si è trasformato? Quando è che l'isola suicidio si è lasciato al mare indaffarato? Forse è come credere alle favole, e forse quelle favole svanirono nel mio passato. Ti ho surclassato, ma ho ereditato debiti e singhiozzi. In fondo tutti quanti lo sappiamo, con l'ego ti strozzi. Qua, cara vecchia realtà, ad affrontarci a pugni e nocche finché non finirà un altro giro, un altro giorno immersi in ostilità, una partita concepita in piena disparità. Ma va, l'utilità sta nel combatterla, in quanto fermo restando in ciò che è campo, nero su bianco più il mio branco di gente che mi è stata accanto e non sparisce manco quando sbando, differenziandosi a tutt'altro. E intanto come per incanto piove canto, zero nubi su nell'alto, pur un lampo qua s'affranto, nello sguardo alla realtà non è uno schianto, quanto stanco d'aver poco in cambio, tanto poco dopo contraccambio. Mi domando come andrà, ma non si sa cos'è comando. La realtà che sto affrontando vuol tenermi giù nel fango, limitandomi di traccio, non la tengo in pugno in palmo. Li dimostro stando calmo esattamente quanto valgo. Doppia H, Chunky e Jack sopra il quarto di riguardo. Diamo un'occhia a sta realtà perché si sa come non farlo. Vi dirò la verità, qua non ci scampo. Pensi solo a un tuo risparmio, sembra scaltro, ma è soltanto tempo a random. Tempo perso nell'affanno, intendo solo ciò che saldo. Sono attimi che scarto, se per me non è un guadagno. Direzioni di rimpianto in cui mi incarto, poi ribalto, pompo audio nell'impianto, puoi testarlo per lo stampo.